Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Di Gigi Donelli, ma anche di Jacopo De Franchi, di Alessandro Schirano, di Paolo Corleoni in regia. Bentornati, cari ascoltatori, a questa, diciamo, produzione normale, insomma, quella scolastica di Europa Europa, lavori che riprendono, che sono ripresi ampiamente a Strasburgo, o meglio, no, Strasburgo no, a Bruxelles, perché a Strasburgo intanto è tutto congelato proprio emergenza Covid. Partiamo da una citazione. Nel 2017, in un ormai noto discorso alla Sorbona, il presidente francese Emmanuel Macron parlò di sovranità europea. Molti allora lo ascoltarono con prudenza, cautela, se non scetticismo. A 3 anni di distanza, gli elementi di una possibile sovranità europea si stanno moltiplicando in un'Europa che deve fare i conti con una perdurante epidemia influenzale, uno shock economico con pochi precedenti, nuove crisi internazionali nel vicinato e naturalmente la Brexit. Nel contempo, per la prima volta, i paesi dell'Unione Europea si stanno dotando di un embrione di politica economica ed industriale. Quanto vi ho letto poc'anzi è un pezzo, è l'incipit di un articolo pubblicato 7 giorni fa sul sole24ore.com, che evidentemente potete dunque ritrovare all'indirizzo, a firma di Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, collegato con noi. Sembra che qualcosa stia accadendo, insomma, in queste poche righe sintetizzi, al di là degli elementi su cui andiamo pezzo pezzo nei prossimi minuti, ma c'è un clima generale diverso? Ma c'è un clima generale diverso perché a fine luglio i paesi membri dell'Unione Europea hanno preso una decisione che è per molti versi storica. Hanno detto alla Commissione Europea di indebitarsi a nome loro per un totale di 750 miliardi di euro. Allora, non è la prima volta che succede, è la prima volta che i paesi membri dell'Unione danno mandato all'esecutivo comunitario per indebitarsi per una somma così ingente. È chiaro che lo shock economico provocato dall'epidemia influenzale durante la primavera ha scosso gli animi e ha indotto a un accordo che sarebbe stato inconcepibile, inimmaginabile fino a qualche mese fa. È chiaro che questo accordo, per molti versi, ma immagino ci torneremo dopo, è stato facilitato dal fatto che ormai la Gran Bretagna non è più membro dell'Unione Europea. Ci torniamo e come, anche con la forza di tutta l'attualità, visto che appunto abbiamo tra virgolette lasciato un dibattito con la Gran Bretagna, siamo arrivati a un ultimatum appunto che tutto sommato non era previsto. Sulla pandemia abbiamo detto sembrava poter distruggere l'Europa e forse si esagerava. Adesso non corriamo un rischio opposto, cioè che l'effetto pandemia sia di fatto il meccanismo che fa superare tutti gli ostacoli? Prima di tutto lo shock economico è stato notevole e non è stato ancora superato. Ci vorrà tempo perché i paesi europei recuperino il terreno perduto da un punto di vista prettamente economico. Addirittura, secondo la Banca Centrale Europea, vorrà tempo fino al 2022. Peraltro alcuni paesi faranno probabilmente peggio di altri e in secondo luogo la situazione sociale è ancora per il momento relativamente stabile, ma rischia di peggiorare grandemente nei prossimi mesi. Quindi da un punto di vista economico la pandemia continuerà ad avere effetti negativi. ma da un punto di vista politico, come dicevo prima, è chiaro che ha rilanciato il grande processo di integrazione europea. Allora, l'integrazione europea, che come ricordiamo sempre è fatta da 27 stati con tanti punti in comune e tante differenze, e ovviamente noi vogliamo focalizzare, e lo facciamo con una voce, un servizio, sull'Italia. Allora, il ministro dell'economia Gualtieri e poi un punto tutto italiano di Alberto Magnani. Siamo in realtà quello che ci dicono, perché correte così tanto, prendetevela comoda, perché la maggioranza dei paesi presenterà il recovery plan, quello finale, quello con tutti, ad aprile, che è la data prevista, data principale, diciamo, prevista da regolamenti. Le linee guida ci sono, ora manca tutto il resto. Il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei ha presentato in settimana la bozza del cosiddetto Recovery Plan, il piano di ripresa preparato dall'esecutivo italiano per incassare i 209 miliardi destinati dal Recovery Fund, il piano per la ripresa congegnato dalla UE per rilanciare un'economia affossata dalla crisi del Covid-19. Il testo, chiamato Linee Guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si limita a individuare 6 aree chiave per l'attuazione di riforme in Italia: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e rivoluzione verde, infrastrutture per la mobilità, istruzione e formazione, equità, inclusione sociale e territoriale e salute. Le ipotesi vanno dallo sviluppo del 5G al completamento delle infrastrutture ferroviarie, passando per la digitalizzazione della scuola e l'aumento della quota di laureati. Il premier Giuseppe Conte ha sostenuto che l'Italia sia già in fase molto avanzata nella definizione del suo piano di riforme, ma di fatto la partita si è appena aperta. Il governo dovrà infatti trasformare i suoi obiettivi in progetti concreti e sottoporli al vaglio di Bruxelles entro i termini stabiliti, cercando di mediare fra centinaia di proposte in arrivo tra i vari dicasteri e le inevitabili frizioni tra maggioranza e opposizione sull'uso dei fondi in arrivo dall'Unione Europea. Il timore è quello del più classico assalto alla diligenza per accaparrarsi gli oltre 200 miliardi a disposizione. L'agenda, in compenso, è già tracciata. Il 15 ottobre si aprono le consultazioni informali con Bruxelles e l'esecutivo avrà tempo da gennaio ad aprile del 2021 per sottoporre alla UE il suo piano, a sua volta soggetto al doppio via libera di Commissione e Consiglio. L'obiettivo del governo sarebbe di bruciare le tappe e inviare il pacchetto già a gennaio, in anticipo rispetto alla scadenza finale fissata dalla Commissione. Il tutto passando per l'iter parlamentare e facendo sintesi tra le varie istanze che si accalcheranno sul tavolo del governo. L'ambizione è di chiudere la pratica in tempi rapidi, ma non è chiaro ancora se sarà possibile. In fondo, come ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, non è una gara di velocità. Alberto Magnani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Allora, ti risulta questa accelerazione? È importante davvero? Ma credo che da un punto di vista europeo ci sia il tentativo di accelerare. Alcuni paesi spingono in modo più evidente, altri probabilmente un po' meno. È chiaro che il processo però è lungo, perché bisogna che ci sia l'approvazione definitiva da parte dei paesi membri del piano di rilancio, il Recovery Fund, come viene chiamato in inglese. Al tempo stesso vi è in corso un difficile negoziato con il Parlamento per l'approvazione definitiva del bilancio comunitario per il prossimo settennato, quindi l'iter è un po' complesso, ma mi sembra di poter dire che il tentativo è di riuscire in un modo o nell'altro a creare le possibilità per cui una parte del denaro del fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro venga sborsato nei primi mesi dell'anno prossimo. Ecco, non sarei più preciso di così, perché la situazione è ancora politicamente complessa. In un contesto, tra le cose, mettiamole tra le cose cambiate nell'ultimo anno, e ancora dalle fresche elezioni europee di maggio 2019, in cui il governo italiano viene evidentemente visto su uno sguardo sotto una luce molto diversa. Sì, il governo italiano viene visto in modo diverso, direi, per due motivi. Il primo motivo evidentemente è stato l'emergenza sanitaria. È chiaro che la situazione che l'Italia è stata chiamata ad affrontare in primavera ha evidentemente colpito molti paesi, e ci ricordiamo naturalmente che all'inizio molti paesi erano cauti, prudenti, freddi, quasi insensibili alle notizie provenienti dall'Italia, e poi si sono resi conto, essendo anche loro colpiti dall'epidemia, che la situazione sanitaria era evidentemente pericolosa. Questo aspetto chiaramente gioca nel mondo politico europeo e nel mondo diplomatico europeo. L'Italia ha affrontato l'epidemia, ne ha pagato le conseguenze come altri paesi europei, e credo che la sua immagine da questo punto di vista si è rafforzata. Allora, al tempo stesso, prego Pedi, concludi. Al tempo stesso l'Italia è anche il paese più indebitato in Europa, ed è il paese che per molti aspetti in politica economica si è dimostrato spesso inaffidabile, e quindi da questo punto di vista l'immagine positiva guadagnata sul fronte sanitario non è confermata sul fronte politico ed economico. Quindi quando l'Italia negozia con i suoi partner deve tenere conto di questo aspetto. Direi chiarissimo. Con Beda Romano tra un istante, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi ripartiamo, l'abbiamo accennato all'inizio, il grande capitolo della Brexit, che ovviamente riguarda in primo piano, riguarda tutti gli europei, riguarda Londra, ma tocca tutti noi, anche con un'incertezza che in qualche modo si rafforza proprio in queste ore, come mai era accaduto prima. Tra un istante. Europa, Europa. Ben ritrovati da Gigi Donnelli, Europa, Europa. Con Beda Romano cerchiamo di fare un po' il punto, di fatto una sorta di agenda, ma anche per ragionare sui tanti temi che andremo ad affrontare in questa stagione nel rapporto Italia-Europa, Europa-Stati europei. Naturalmente la Brexit, lo abbiamo accennato, però, e chiedo scusa a Beda Romano, un piccolo cambio in corsa, è sempre lì presente, ma non l'ho citato, il tema dell'armonizzazione fiscale, che ha accompagnato anche il momento di tensione più alto nella trattativa sul Recovery Fund. Verrà finalmente affrontato, secondo te? Ma credo che verrà affrontato, sì, ma verrà affrontato in modo indiretto, come spesso accade nei lavori comunitari. Vi è un aspetto che è all'ordine del giorno in questi mesi, ed è la tassazione delle imprese digitali. Le grandi imprese digitali riescono, per la loro natura, per il fatto che lavorano su internet, riescono a eludere l'imposizione a livello nazionale, e molti paesi europei stanno soffrendo di questa situazione, e quindi alcuni dirigenti europei, a cominciare dalla Francia o anche dalla Germania, stanno insistendo con l'idea di perseguire una tassazione europea in questo campo. Allora, non si può parlare di armonizzazione fiscale, ma si può parlare di tassa europea, che è diventata peraltro ancora più importante, ancora più indispensabile, dopo che i 27 hanno deciso di chiedere alla Commissione di indebitarsi a loro nome per 750 miliardi di euro. Questi 750 miliardi devono essere rimborsati, e una tassa digitale europea potrebbe essere uno degli strumenti che può essere utilizzato in questo frangente. Brexit, partiamo da una voce. I am particularly worried and disappointed. Ora, il signor Michel Barnier, che con il suo bel accento francese ci parla in inglese, dice chiaramente I am particularly worried, quindi sono preoccupato e disappointed. Le cose non vanno affatto bene, il rapporto, il dialogo, dunque Barnier, lo ricordiamo, capo negoziatore per l'Unione Europea sul fronte Brexit, siamo arrivati a un punto di scontro durissimo. Beda. Siamo arrivati a un punto di scontro molto duro e obiettivamente dall'esito incerto. Allora, non è la prima volta che succede, evidentemente. Il confronto fra Bruxelles e Londra è stato difficile in questo negoziato, che cominciò nel 2017, un anno dopo il referendum con cui gli inglesi decisero di lasciare l'Unione Europea. Dobbiamo ricordarci che già l'anno scorso, quando si avvicinava rapidamente la scadenza entro cui firmare un accordo di divorzio, anche l'anno scorso il governo inglese usò le maniere forti e cominciò a minacciare tutta una serie di conseguenze immani. Siamo nella stessa situazione? Un'altra volta Londra decide di usare le maniere forti perché siamo vicinissimi alla scadenza della fine dell'anno, quando il paese uscirà dal mercato unico alla fine del periodo di transizione cominciato il 31 gennaio? È possibile, ma non si può escludere, purtroppo, visto la natura della dirigenza inglese in questa fase storica, che la Gran Bretagna decida veramente di uscire senza un accordo di partenariato con l'Unione Europea e quindi di abbandonare il mercato unico e l'Unione Doganale il 31 dicembre senza avere un paracadute comunitario. Ma Beda, allora, qual è il pericolo più grosso per noi cittadini europei in questa ipotesi? Ma per noi cittadini europei il pericolo è relativamente limitato. Evidentemente vi è un interesse europeo ad avere un accordo di partenariato con la Gran Bretagna, certo, perché la Gran Bretagna è un paese vicinissimo alle coste europee, è un paese ricco, importante da un punto di vista finanziario in particolare, e l'Europa non vuole che la Gran Bretagna diventi una Singapore dall'altra parte della manica. Chiaro. In altre parole, un paese che comincia a fare concorrenza sleale, soprattutto sul fronte fiscale, agli altri 27 paesi ex partner a quel punto. Quindi questo è l'aspetto che probabilmente più preoccupa i dirigenti europei. Un paese che, mi piace aggiungere, molti di noi considerano molto più europeo di quanto non la storia degli ultimi anni in qualche modo abbia spinto gli eventi a pensare. Sarebbe davvero una pessima cosa per tutti. Altro tema, e sentiamo un'altra voce importante dell'Europa. Alexei Navalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok. Angela Merkel subito interviene, in quella giornata sono intervenuti tutti, ministra della difesa tedesca, ministro degli esteri, Angela Merkel, i rapporti Europa-Russia e più in generale la politica estera europea. L'abbiamo sempre detto, la grande assente, una delle parti, se vogliamo, assente, appunto, non è che ci sia poi tanto da complicarsi nelle parole, non esiste una politica comune europea. E oggi qual è la sensazione rispetto ad una crisi, appunto, tra l'umanitario e il politico? Come mai questa esigenza di farsi sentire? E l'Europa è allineata a questa posizione? È ancora difficile dire se l'Europa è allineata sulla posizione tedesca nei confronti della Russia. In parte anche perché la posizione tedesca nei confronti della Russia è parzialmente incerta, nel senso che la Germania ha tradizionalmente un rapporto molto sentimentale, vicino nei confronti della Russia. La Germania in questi anni ha tentato sempre di evitare rapporti troppo duri con Mosca. È evidente che l'avvelenamento di Alexei Navalny, presumibilmente per scelta del governo russo, non vi sono certezze su questo fronte, sta cambiando il rapporto che la Germania ha nei confronti della Russia, ma non sappiamo ancora fino a che punto. Sappiamo che vi è un grande dibattito in Germania sulla relazione con la Russia, sappiamo che alcuni esponenti politici hanno chiesto che venga annullato il contratto che prevede la fornitura di gas da parte della Russia alla Germania con la costruzione di un nuovo gasdotto, il Nord Stream 2, ma non sappiamo ancora se il governo federale vuole veramente andare in quella direzione. Governo federale, peraltro, governato ancora una volta da una grande coalizione fra democristiani e socialdemocratici, e questo probabilmente non aiuta. È chiaro però che la politica estera e le varie crisi che si stanno succedendo nel grande vicinato europeo, penso, infatti ti volevo chiedere della Bielorussia, di quanto stiamo seguendo il fatto da un mese. Esatto, la Bielorussia, la Turchia, la Libia, sono tutte crisi che in un modo o nell'altro impongono all'Europa di prendere una decisione. Sappiamo che la politica estera ha sempre provocato divisioni tra i 27, ma ho l'impressione che sempre più spesso queste divisioni si stanno stemperando. I 27 si stanno rendendo conto che in un mondo sempre più instabile, in un mondo sempre più incerto, conviene loro unirsi per quanto possibile anche sulla politica estera, dove tradizionalmente gli interessi nazionali hanno spesso diviso i partner europei. Grazie davvero tanto a Beda Romano, lo ricordo, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Grazie Beda. Grazie molte. Beda Romano, che potete leggere tra l'altro sul blog bedaromano.blog.ilsole24ore.com. Dicevo, un quadro d'insieme in un'agenda davvero ricca. Seguiremo attraverso i nostri notiziari, attraverso i nostri programmi, attraverso i programmi di economia, ma anche quelli di costume e persino di sport, le vicende che riguardano la Brexit, che riguardano la crisi dell'economia. I nostri colleghi sportivi seguono regolarmente, Dario Ricci, Carlo Genta, seguono con Giovanni Capuano, seguono regolarmente per esempio la complessità dei mercati e delle situazioni delle società di calcio, che non sono probabilmente diciamo la prima linea delle preoccupazioni della maggior parte di noi, ma sono dei sistemi di lavoro, sono delle imprese, sono delle realtà e anche occasioni di divertimento. Tutto questo per dire che siamo davvero in una fase probabilmente cruciale, in cui da una parte, ed erano soltanto pochi mesi fa, eravamo tutti concentrati sul ruolo dei sovranisti. Lo ricordate? Elezioni di maggio 2019, come cambierà il Parlamento. Il Parlamento è cambiato, ma la realtà è che non sono cambiati alcuni equilibri. Addirittura su questo tema si è inserita, naturalmente con una violenza inaudita e imprevedibile, la pandemia. Un altro grande tema, che poi era quello, diciamo, istituzionale della presidenza von der Leyen, cioè quella della green economy per il futuro, la trasformazione industriale in senso verde dell'Europa, è rientrato per esempio nelle dichiarazioni recentissime di questi giorni del presidente del Consiglio Conte. Non crediate, o magari lo sapete meglio di me, che questi temi in realtà ritornano in quasi tutti gli stati europei, i 27, i grandi stati. Quindi problemi comuni, specificità nazionali, ecco, questo è quello che cercheremo di raccontare in questa stagione di Europa Europa con la nostra squadra, con tutti i colleghi di Radio 24, perché ormai, che ci piaccia o meno, insomma, l'interazione di questi livelli, che è il nazionale e il politico internazionale, e direi in mezzo una sorta di grande legame, la politica comunitaria, così si chiamava una volta, ormai sono totalmente indissolubili. Allora, grazie di essere stati con noi. Naturalmente vi lascio come sempre all'appuntamento con GR24, tutti i programmi di Radio 24. Europa Europa torna sabato prossimo. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.